Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda i temi emersi anche dall'ultima giornata degli Stati Generali, a sorpresa, dico a sorpresa perché è sembrato di cogliere una sorpresa anche nel Ministero dell'Economia e Finanze, il Premier Conte ha ipotizzato, ha aperto una riduzione dell'IVA. Ne parleremo oggi perché ci sono dati che riguardano proprio l'andamento dei consumi diffusi oggi da Confcommercio, meno 30% il calo dei consumi a maggio, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento della pandemia, e un dato meno negativo se si confronta con meno 47% di aprile, però c'è ancora, e questo è innegabile, una grossa difficoltà, siamo praticamente oltre metà giugno, nella ripartenza per i servizi legati alla fruizione del tempo libero, e dentro questa voce entrano bar, ristoranti e tutte le attività, diciamo, legate al tempo libero. Perché? Perché sappiamo che sui consumi alimentari invece c'erano stati dei dati, soprattutto durante il lockdown, ovviamente positivi. E in questo, e poi ne parleremo, si lega anche il tema dello smart working, su cui non faremo un approfondimento specifico, ma è chiaro che alla luce anche delle parole del sindaco Sala, a mio avviso ho parlato di gaffe perché andavano esplicitate meglio e comunque corrette, non puoi dire che chi è al lavoro, chi è in smart working, bisogna tornare a lavorare così, perché sembra che chi è in smart working non stia lavorando, e in realtà molti nel settore privato e immagino anche in quello pubblico stanno lavorando come da casa. Bisogna fare un distinguo, poi ho visto la polemica di Chino sul settore pubblico, cosa fanno secondo Chino 6 su 10, 7 su 10 in realtà lavorano molto poco da casa nel settore pubblico, però bisogna stare attenti perché quando si parla di smart working e si inserisce anche il settore privato, il ragionamento cambia. Detto questo, ho capito l'obiettivo di Sala, che è trovare una soluzione, perché è innegabile che il calo dei consumi, soprattutto appunto nei servizi legati alla fruizione del tempo libero o comunque anche di ristorazione e altro, è dovuto nelle grandi città, ma non solo nelle grandi, anche nelle medio-grandi, appunto all'assenza non solo di turisti, cioè ho combinato disposto dell'assenza dei turisti nei centri storici e l'assenza di lavoratori nei centri urbani, che sappiamo per esempio consumavano il pasto spesso in locali pubblici, in esercizi pubblici e quant'altro. E quindi da lì anche una, chiamiamola così, desertificazione che ancora si nota nelle città più grandi, ma ripeto non solo, per via dello smart working. Questo però si unisce a un altro tema di cui, come ogni giorno, faremo un punto, anche all'esigenza di molti lavoratori e soprattutto lavoratrici di capire come tornare al lavoro se hanno dei figli. E qui sapete, anzi lo lancio subito così poi ce la mettiamo via, sapete che il tema è quando riaprirà la scuola e che cosa ne è dei centri estivi. Abbiamo visto anche qui molta, molta difficoltà nella riapertura dei centri estivi, ma soprattutto in prospettiva. Adesso io immagino che la maggior parte delle aziende, perlomeno quelle private che conosco io, stanno andando a traguardare almeno settembre con lo smart working, anche perché adesso tra ferie estive, chi le può fare, chi non le ha già scaricate, insomma diventerebbe un po' complicato. Però anche su settembre invito, senza polemica ma non mollo il colpo, ricordo al ministro Azzolina e al presidente del Consiglio Conte, che adesso ha incontrato tutte le categorie possibili del mondo produttivo, che ancora stiamo attendendo, e questa dovrebbe essere da questo punto di vista una settimana determinante per la scuola. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, è forse il giorno speciale. Oggi è sabato, meno male. Sì, sempre sabato per tutto. Allora, vediamo tra mercoledì e giovedì. Magari se la smettiamo con sto stacchetto. So che qualcuno dice basta con la scuola. Ho capito, basta con la scuola quando non ci sarà più notizia. Tra mercoledì e giovedì dovrebbe arrivare via libera sulle linee guida per il rientro a scuola a settembre. E poi i tavoli regionali inizieranno a lavorare insieme alle scuole. Si stanno scambiando dati Ministero, Regioni ed enti locali. Cristina Grieco, coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni, ha detto che aspettiamo il testo del Ministero e lo esamineremo nella conferenza straordinaria che si terrà probabilmente giovedì e daremo il nostro parere. In quella sede si deciderà anche la data del rientro a scuola, che sarà molto probabilmente il 14 settembre. E continua la Grieco, questa settimana sarà determinante, non vogliamo contrapposizioni, dobbiamo lavorare assieme, è urgente far sapere quando e come si riparte da settembre. E poi contestualmente le regioni, giovedì prima in conferenza delle regioni, poi in conferenza Stato-Regioni, coordineranno la data di inizio della scuola, appunto per ora tra il 14 o forse il 15 settembre. Vedremo le linee guida e chiaramente poi ce ne occuperemo. Adesso però le altre notizie in breve. Comunque vedo molti messaggi sul smart working e consumi nei centri urbani, nemmeno nei centri storici. Mi scrivono alcuni ascoltatori in centro a Milano, in centro a Roma, si va dal meno 60 al meno 70%. Altri mi dicono piuttosto che andare al bar ristorante con i guanti, il gel, la mascherina, il metro, rimango a casa. Beh, insomma, l'esperienza è un po' diversa. Guanti al ristorante non ne ho visti. Parlo dei clienti, mascherine le ho viste portare da tutti i camerieri, ma insomma la distanza c'è. Guardate che è un po' diverso però il tema del ristorante, della ristorazione la sera, rispetto al tema che, ripeto, con una comunicazione che poteva essere migliore, ha sollevato Sala. Perché lì riguarda proprio le attività, usiamo la parola commuting, cioè tutti quelli che si spostano la mattina per andare al lavoro e poi la sera per tornare a casa, tema per inciso anche molto importante per noi visto che facciamo radio, la radio si ascolta molto in macchina e si ascolta molto anche questa radio durante il commuting. Ma al di là del caso nostro, è chiaro che se hai meno persone che si recano nei luoghi, diciamo, lavorativi, hai meno consumi. Però datemi ancora qualche minuto perché ci arriviamo. Nel frattempo vorrei partire con le notizie in breve sulla la pandemia, perché l'OMS dice che continua ad accelerare nel mondo. Qui c'è una diversa percezione in Europa e soprattutto Italia, Spagna e Francia, dove la Spagna per esempio ieri è tornata completamente alla riapertura. New York, visto che ha riaperto la fase 2, riaprono i ristoranti, anche parrucchieri e barbieri. Nei ristoranti newyorkesi però New York è la più importante città per l'economia americana come città. Si potrà mangiare solo all'aperto. Da oggi tornano a lavorare tra le 150.000 e le 300.000 persone. Appunto bar e ristoranti clienti solo all'esterno con alcune restrizioni, fra cui massimo 10 persone per tavolo e solo se sono tutte parte dello stesso gruppo, visto che anche per quello che riguarda l'Europa c'è la riapertura al 15 luglio di Disneyland Parigi, la mascherina obbligatoria, attesi quasi la metà, o meglio attesi, la capienza è ridotta a quasi la metà perché di norma ci sono 41.000 visitatori al giorno, al massimo potranno entrarne 25.000, ammesso che si arrivi però a questa cifra. E vedo con piacere, perché è un settore che seguiamo spesso con interesse, che il Vinitaly, sapete che Vinitaly era stato posticipato e poi sospeso anche il posticipo, però ha ideato un nuovo format che si chiama Wine to Wine Exhibition, in programma a Verona Fiere dal 22 al 24 novembre prossimi, in contemporanea Wine to Wine Business Forum, cioè rivolto al pubblico sia business che clienti, B2C come si dice per il cliente finale, B2B per business to business. e sviluppate secondo tutti i protocolli di sicurezza concordati dai maggiori operatori fieristici italiani, e permetterà di avere incontri anche online e virtuali, degustazioni guidate e vari padiglioni coinvolti. Però questo dicevo il fronte europeo. Faccio notare che il fronte sudamericano e non solo, anche indiano, continua a peggiorare. Il governo brasiliano ha esteso di altri 15 giorni il divieto di ingresso degli stranieri attraverso i confini terrestri e aerei. Il paese ha bloccato, quindi possono passare solo camion con merci, cittadini brasiliani e cittadini stranieri che hanno la residenza legale in Brasile. Nel frattempo invece in India si è raggiunta la cifra di 425.000 casi positivi, per un totale di 13.400 morti. Solo New Delhi ha 60.000 casi positivi, e New Delhi sta registrando 3.000 nuovi casi ogni 24 ore. Però negli Stati Uniti, al di là del fatto che Trump dica noi facciamo così tanti test che aumentano i casi positivi, lo sappiamo, vale anche per più modestamente per l'Italia, però New York ha contato gli Stati Uniti hanno avuto più 15% di casi nelle ultime due settimane, e soprattutto negli stati del sud, sia venerdì che sabato oltre 30.000 contagi, il livello più alto del primo maggio. La media però dei decessi è scesa del 42% e ripeto, si è spostata nel Midwest e negli stati del sud. Veniamo ai temi europei. Da un lato il tema del Recovery Fund. Gentiloni ha detto sono sicuro che l'accordo su recovery sarà a luglio, così il commissario all'economia europeo Paolo Gentiloni, e il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, che ha incontrato oggi il ministro Di Maio e ha fatto una conferenza stampa a Villa Madama, ha detto nonostante le posizioni divergenti sono stato nei Paesi Bassi e in Austria e c'è una disponibilità al compromesso. Il quesito non è se ma come la forza di questa crisi può contribuire a superare le linee di demarcazione. Insomma, ha detto Austria e Olanda sono disposte a un compromesso. Di Maio ha detto abbiamo molto apprezzato l'appoggio della Germania a un piano ambizioso in ambito europeo sul Recovery Fund. E poi, parlando di flussi turistici, Di Maio ha detto stanno arrivando le prime prenotazioni da cittadini tedeschi ma anche francesi e dell'Unione Europea, tuttavia non possiamo aspettarci i flussi che c'erano prima della pandemia, perché verso i paesi terzi c'è molta più cautela, e poi faremo una scelta a livello europeo confrontandoci sui dati delle tendenze epidemiologiche. È chiaro che nessuno si aspetta, ahimè, una ripartenza del turismo come pre-Covid, cioè come la stagione scorsa, però è vero che anche noi arrivano segnalazioni per adesso soprattutto del Veneto e Friuli, dove è più facile accesso dall'Austria e dalla Germania via Austria o di turisti anche austriaci, che iniziano a esservi le prime prenotazioni anche di stranieri. Da qui a vedere quanto poi diciamo andranno a estendersi nel resto della penisola ce ne vuole. Per quello che riguarda i temi di casa nostra invece mi sposto, sì, c'è un'agenzia di Moody's, qualcuno mi segnala Moody's, vabbè, ha detto Moody's ha detto che aumenterà il debito di tutte le economie avanzate, e in Italia volerà il debito, l'impatto del rating dipenderà dalle scelte del governo. Ma venendo all'Italia, dicevo, il fondo di garanzia e le domande presentate dalle banche, quindi quelle già processate, parliamo del prestito fino ai 30.000 euro, che è diventato fino a 30.000 euro con la legge, prima era fino a 25.000 euro. Allora, sono arrivate a 678.000 le domande pervenute al fondo di garanzia per un totale di 37 miliardi di euro. La stragrande maggioranza, anche in questo caso, sono domande fino a 30.000 euro che hanno superato quota 600.000 per 12 miliardi di euro. E adesso veniamo all'idea del, cioè di quello che è emerso dagli stati generali prima di arrivare al tema dell'IVA e dei consumi, soprattutto perché, ripeto, oggi c'è sia la Confcommercio ma c'è anche la Confindustria nel centro studi che stima un secondo trimestre meno 9% come PIL italiano, con una produzione industriale a un meno 20%, cioè il secondo trimestre è già compromesso, e poi un rimbalzo. La Banca d'Italia stima oggi, c'è di nuovo una dichiarazione del governatore Visco, un meno 10% del PIL italiano nel 2020, e poi Visco aggiunge: c'è incertezza su stime ma serve un piano di crescita. E allora vediamo intanto di fare una sintesi di quello anche politica, di quello che è successo con la chiusura degli stati generali. Dunque, a chi mi dà del pagliaccio, perché no, ho dimenticato che New Delhi ha 31 milioni di abitanti e il Brasile oltre 200 milioni, non ho infatti dato il rapporto tra contagiati e numero di abitanti, ho solo detto, se non vuole vada a vedersi le agenzie che arrivano da New Delhi, che l'India sta registrando un altissimo numero di contagiati, dopodiché le autorità indiane dicono che questo è dovuto al numero di tamponi, è una cosa che abbiamo già sentito in questi mesi. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Visto che parlavamo però anche dei contagi, vorrei dare anche l'andamento di borsa assieme alle altre notizie. Perché? Perché oggi i mercati sono deboli in tutta Europa e non solo, proprio sul timore che al di là dell'Europa la situazione sia tutt'altro che tranquilla. Meno 0,70% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 0,90% Londra. Dow Jones invece adesso è invariato, va bene da noi Interpump più 6,50%, Inuit più 2,80% di Assorin più 2% come Amplifon e Fiat Chrysler più 1,60%, Banca Generali più 0,90%. Chi cede invece sempre tra i titoli a maggiore capitalizzazione, Snam il 6% come Terna, il 3% Leonardo e anche Mediobanca, il 2,20% Estima Electronics, il 2% Tenaris e Saipem, l'1,80% il CAU di Poste Italiane e Italgas, l'1,60% quello di Atlantia, l'1,20% UBI Generali ed Eni, anche Azimut, lo 0,80% è quello di ERA. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, Conte ieri in conferenza stampa, tra l'altro oggi c'è anche un'intervista in cui sull'emissione di bond perpetui, dito non escludiamo nulla, ieri Conte ha detto non c'è stata nessuna passerella, abbiamo lavorato senza sosta, serve un'Italia moderna, sostenibile, inclusiva e subito misure concrete sulle categorie in sofferenza. È chiaro che se e si dovesse rendere necessario, come apparirebbe abbastanza possibile barra probabile, uno scostamento per quanto riguarda il deficit, significherà intervenire subito con misure concrete e lo faremo ovviamente alla luce, tenendo conto di come si stanno mettendo a terra tutte quelle già, diciamo, adottate. Quindi sapete già la premura del governo, il governo non vuole, abbiamo fatto una scelta ben precisa, non vogliamo lasciare che si crei disoccupazione nel paese, che i lavoratori vadano a casa definitivamente, cercheremo quindi di tenere sicuramente, questo è un primo obiettivo, e poi altri incentivi, altre agevolazioni per le categorie maggiormente in sofferenza. Ci sono alcuni settori e in queste giornate è risultato evidente che non ripartiranno neppure con la riapertura formale delle attività. È chiaro che ci sono alcuni di questi settori che avranno necessità l'abbiamo anche detto, immaginate il turismo. Il turismo non è certo che con la riapertura ripartono le programmazioni, le visite, quantomeno dei turisti. Quindi auspichiamo, l'abbiamo detto, dovremo tutti quanti impegnarci responsabilmente, spero, per viaggiare qui in Italia, per visitare il nostro paese. Però il fatto che non ci sono prenotazioni consistenti, apprezzabili dall'estero, questo significa che in prospettiva dovremo predisporci a intervenire. Allora, è appunto Conte. Allora, devo dire una cosa, io critico anche sui tempi di questi stati generali, l'ho detto più volte, però ormai li abbiamo fatti. Se sono serviti ad arrivare ai distinguo che personalmente chiedo da un mese e mezzo, due, cioè all'inizio c'è stata la fase dell'emergenza per tutti, la fase tampone che ancora deve concludersi, penso la cassa integrazione e le domande da processare per i prestiti agevolati e anche per i prestiti a fondo perduto per le imprese. Poi è ovvio che nei prossimi mesi alcune imprese, dubito che qualcuno possa, alcuni settori aumenteranno anche il fatturato, abbiamo visto andare bene per esempio il farmaceutico, ma non solo, alcuni settori avranno cali tra il 10 e il 20%, altri le avranno tra il 50, il 40 e il 60, e c'è una differenza enorme. E quindi dovrà entrare nei singoli settori, ripeto per l'ennesima volta, una cosa un po' noiosa, un po' di dettaglio, un po' non certo glamour, però è così che poi si fanno i piani concreti, si redigono i piani concreti, si interviene in maniera mirata. All'inizio aveva un senso da, diciamo, mettere una cintura di protezione a tutti, più passa il tempo più dovrai dare forti aiuti e sconti ad alcuni settori, magari meno ad altri. E appunto Conte ha detto verifichiamo la necessità di un nuovo scostamento di bilancio oltre a quello già fatto, e questo ci porta anche a parlare dell'IVA, che sull'IVA abbiamo un vantaggio, abbiamo sostanzialmente congelato l'eventuale aumento dell'IVA per i prossimi 2 anni, vale 20 miliardi per l'anno prossimo e 27 miliardi per il 2022, ricordate che ogni volta bisogna trovare i soldi perché altrimenti scattava l'aumento in automatico dell'IVA. Ecco, questo non c'è più, quindi hai maggior margine. Comunque sentiamo Conte sulla necessità, sul fatto che verrà valutata la necessità di un nuovo scostamento di bilancio. Ci sono delle misure di più immediato impatto e sicuramente abbiamo già valutato la opportunità, ma probabilmente sarà necessità di intervenire per un ulteriore scostamento, perché è chiaro che le misure che abbiamo già predisposto sappiamo che adesso stanno pienamente andando a terra, però sappiamo che non saranno sufficienti per reggere l'impatto di questo anno horribilis dal punto di vista ovviamente delle conseguenze economiche e anche della sofferenza sociale. Quindi sicuramente adesso non abbiamo ancora fatto di conto, ma fra un po' dovremo riassumere con il ministro Gualtieri che è qui, con il ragioniere dello Stato, dovremo metterci intorno a un tavolo e far di conto per vedere. Ovviamente l'aggiornamento è costante anche rispetto ai flussi di cassa dello Stato. Allora, ministro agli affari europei Enzo Amendola, ospite questa mattina di Simone Spezia e Maria Latella 24 mattina, a proposito degli strumenti del MES, io continuo a dirlo, guardate che non si può continuare a dire che abbiamo bisogno di fondi e non utilizzare una delle quattro gambe. La quarta gamba ancora non c'è, il Recovery Fund. Le altre tre gambe del tavolo europeo, che questa volta, obiettivamente sapete quanto ho criticato l'Europa ai tempi della vicenda greca e non solo, ma questa volta i soldi ci sono, perché oltre al Recovery Fund, che adesso vedremo come si chiuderà, c'è il MES, che per noi vale circa 14 miliardi di soldi da spendere, tra l'altro potresti utilizzarlo anche per l'edilizia scolastica, perché sono tutte le misure sanitarie, dirette o indirette, per fronteggiare la crisi Covid, e quindi anche la messa in sicurezza, per esempio, delle aule, potresti utilizzare subito quei soldi. Poi c'è il SURE, che invece vale per la cassa integrazione, fornisce soldi per chi ha messo in cassa integrazione, perché è lo strumento che usiamo noi, e poi c'è la BEI. Allora, un tavolo si regge su quattro gambe, inutile fare gli spocchiosi sul MES, ah, forse ci saranno. No, è assolutamente leggero rispetto al MES precedente. Dopodiché, se ci sono altre strade, noi abbiamo fatto un rapidissimo calcolo quanto costerebbe ottenere gli stessi soldi andando sul mercato. Sono più o meno 500 milioni di euro in più all'anno, per cui nell'arco di 5 anni hai risparmiato 2 miliardi e mezzo di euro. Se non frega niente a nessuno, vabbè. Comunque, Amendola sul MES. Le tre reti di protezione, SURE per la disoccupazione, BEI e MES, linea di credito per la sanità, sono state già attivate, sono sul tavolo e sono strumenti a disposizione degli stati che ne vogliono usufruire. Quindi il Consiglio europeo adesso discute di bilancio e di Next Generation. Poi ogni paese discuterà come attivare, quale attivare. L'Italia sicuramente attiverà velocemente SURE per la disoccupazione e, come abbiamo sempre detto come governo, dopo che chiuderemo anche questa ennesima trattativa da qui a luglio, valuteremo tutti gli strumenti che hanno anche delle valenze di impegno e risorse retroattive. 349-23. Ah no, c'è ancora Tridico. Aspettate un attimo prima di andare sul meteo, perché con Tridico io posso dire altro. Che devo dire di più? Comunque ha detto che Tridico dice che sono 25.000 le persone che non hanno ricevuto la cassa integrazione o almeno una prestazione al 31 maggio. Le cifre a noi sembravano molto più alte, risultavano molto più alte. Comunque sentiamo Tridico. Coloro che non hanno ricevuto la cassa integrazione, almeno una prestazione, sono 25.000 persone al 31 di maggio. Sono posizioni che noi stiamo valutando perché sono anche difficili, sono errate, sono da valutare. Le persone che lei ha citato, 134.000, si riferiscono prevalentemente a persone che hanno mandato le domande di cassa integrazione a giugno. Tutto questo ha significato fino a oggi 11 milioni di persone pagate tra bonus e cassa integrazione per 15 miliardi di euro. Per quanto l'istituto appunto le paga velocemente e automaticamente, ogni prestazione che noi paghiamo alla firma di un dirigente, alla firma che porterebbe a un danno erariale se non controllato. E poi Tridico ha detto la cassa integrazione è stata pagata in gran parte dall'INPS, e però 4 milioni 700 mila sono state anticipate dalle aziende, 5 milioni 300 mila prestazioni pagate dall'INPS, 4 milioni 700 mila sono anticipate, tanto paga sempre l'INPS, che le aziende anticipino la cassa integrazione è una regola. Il pagamento diretto ha funzionato per 5 milioni 300 mila prestazioni, per 4 milioni di prestazioni le aziende lo hanno anticipato, ma sono soldi che rientreranno attraverso contributi che non devono pagare. Sì, è vero, Tridico, è vero che in un mondo normale ha sempre funzionato così. Faccio presente che non è un mondo normale e che aziende che non stanno fatturando hanno intanto anticipato la cassa integrazione. Va bene dire che è tutto, che è una regola, facciamo però finta che non siamo proprio in un mondo normalissimo, e la regola funzionava quando tu nel complesso continuavi a fatturare anche a marzo, aprile e maggio. Però va ben così, si fa per dire meteo, pubblicità e poi il tema dei consumi, su cui si integra il tema dell'ipotesi di abbassare l'IVA, anticipato abbastanza a sorpresa dal Presidente del Consiglio Conte. Un abbassamento dell'IVA è stato fatto in Germania, per esempio, ha un unico scopo, visto che porta meno soldi nelle casse dello Stato, stimolare i consumi. Focus Economia. Sono confrontato con i più accreditati economisti, l'abbiamo fatto anche all'inizio della consultazione nazionale, quando nella giornata di sabato abbiamo ascoltato tre economisti stranieri che, oltre alle massime autorità economiche a livello europeo e internazionale, nessuno ha una ricetta pronta. Ed è anche, lo spieghiamo al grande pubblico perché, siamo in una situazione di incertezza in cui ci sono alcune variabili che nessuno in questo momento riesce a prevedere. Quindi è chiaro che qualsiasi soluzione in una situazione di incertezza non può essere così a portata di mano e così univoca. Dobbiamo mantenerci flessibili. Adesso si parla di IVA, se ne è parlato perché, lo dico molto apertamente, nel corso degli incontri avuti con alcuni imprenditori, commercianti e anche associazioni di categoria, è stata una delle richieste che è stata fatta. La mia posizione è stata, insieme ai ministri, che valuteremo anche questa possibilità. È chiaro che un calo dell'IVA, un abbassamento dell'IVA, a noi costa moltissimo di per sé. Nel corso del confronto si è valutata l'eventualità che l'IVA possa essere abbassata per un periodo breve di tempo, in modo da dare una sorta, dicono gli inglesi, boost, una spinta forte per la ripartenza dei consumi. I consumi a maggio sono crollati e la nostra economia non riparte. Bisogna passare dagli annunci alla concretezza dei risultati. Bene l'ipotesi di sostenere la domanda interna con la riduzione dell'IVA. Sarebbe un segnale importante di fiducia che va nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Che non sia però una misura eccessivamente provvisoria. Consumatori e imprese hanno bisogno di certezze per programmare acquisti e investimenti indispensabili per rilanciare l'economia. Allora, nell'ordine abbiamo sentito il Premier Conte sul taglio dell'IVA, ospite oggi del Fatto.it, e poi invece il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel giorno in cui appunto Confcommercio segnala meno 30% i consumi a maggio, meglio del meno 47% di aprile, ma è ancora profondo rosso. Per i settori più colpiti sono il tempo libero, meno 92% tempo libero, alberghi, bar, ristoranti meno 66%, abbigliamento meno 55%. E dire che insomma dal 18 maggio erano attività riaperte, chiaramente non c'è stato nelle due settimane di maggio e neanche in queste prime di giugno l'effetto, diciamo, elastico, cioè la ripartenza dei consumi per tutti quelli che non avevano potuto fare acquisti nel periodo del lockdown. Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. Dunque, l'IVA, allora, l'ipotesi che abbiamo visto è sui 10 miliardi. Segnalo che in questo momento la Germania ha abbassato la sua IVA portandola dal 19 al 16%, meno 3%, e dal 7%, quella più bassa, al 5% per 6 mesi, cioè fino al 31 dicembre. Noi abbiamo un'aliquota ordinaria del 22%, su alcuni beni è del 4%, in altri è del 10%. Una stima, a seconda della dimensione del provvedimento, stimerebbe tra i 4 e i 10 miliardi. Devo dire che personalmente ho sempre ritenuto che l'IVA potesse creare delle distorsioni perché avvantaggia chi più consuma, mentre la riduzione del cuneo fiscale, cioè le tasse in busta paga, andava ad avvantaggiare chi la trattenuta ce l'ha alla fonte. In questa situazione particolare penso che forse sarebbe meglio, ma a mio parere non vale nulla, l'abbassamento dell'IVA, perché ho il timore che, vista l'incertezza, se tu lasci 100 euro in più in busta paga vengono messi direttamente in conto corrente, se te lo puoi permettere, perché non sai cosa capiterà nel futuro. Se invece abbassi direttamente il costo di un bene, io obiettivamente con gli stessi 100 euro compro di più e quindi sono più invogliato alla crescita. Lo chiedo anche a lei, anche se è ovvio che facendo il Centro Studi di Confcommercio voi l'abbassamento dell'IVA lo vedete come, insomma, no, l'unico elemento, o no, Bella? No, ovvio no. Noi facciamo gli analisti, quindi cerchiamo di fare un ragionamento che abbia una logica. Il Presidente del Consiglio però ha parlato di una misura fortemente temporanea. Sì. Perché in Germania è 6 mesi, per esempio. In Germania è 6 mesi ed è più importante, ma loro se lo potevano permettere. Dunque, lei diceva prima tra 4 e 10 miliardi. Guardi che tra 4 e 10 miliardi vuol dire che stiamo ragionando su base annua. I 10 miliardi sono 3 punti assoluti di riduzione dal 22% al 19%, perché questa aliquota mi porta un gettito di 3,4 miliardi per ogni punto, ma su base annua. Il Presidente del Consiglio, contrariamente a quello che giustamente dice il Presidente Sangalli, parla, dal punto di vista della finanza pubblica, gli equilibri, parla di una cosa fortemente temporanea. Io non sono sicuro che una cosa fortemente temporanea possa dare un impulso serio ai consumi, meglio una misura strutturale. In questo momento devo dire che a mio avviso sarebbe preferibile comunque sostenere le imprese che hanno perso, cioè fare trasferimenti che siano proporzionali alle perdite. Faccio un esempio: io, che ancora non sono stato licenziato dalla Confederazione, non ho perso un euro di reddito in questo periodo. Mm-hmm. Mi stai dando il bonus biciclette, mi stai dando il bonus vacanze, io con l'ISEE non ce la faccio, un dipendente pubblico magari ci rientra, ora mi fai anche lo sconto sull'IVA. Cioè sono tutte cose buone, ma non sono coerenti con una strategia che vuole che oggi i trasferimenti dovrebbero essere proporzionali alle perdite, non ai guadagni. Anche il taglio dell'IRAP è un aiuto a chi può pagare le tasse. Beh, io, cioè, avendo base imponibile, avendo guadagnato, io credo che oggi pagare le tasse sia eccezionalmente importante, perché noi di queste risorse, cioè chi può pagare le tasse deve pagarle, perché queste risorse servono per sostenere quel tessuto economico che rischia di scomparire. E se scompare un pezzo del tessuto economico, soprattutto alla filiera turistica, che è strategica, vuol dire che noi staremo a lamentarci e a leccarci le ferite anche nel 2023. Allora, ho capito il suo ragionamento. Lei dice, Barchetta, va bene l'IVA, però siccome l'IVA, in questo io non ho mai amato l'abbassamento dell'IVA, in senso to cure, perché va a vantaggiare di fatto chi può permettersi più consumi. Nel senso che se io spendo 100 euro al mese, cioè una settimana, è una cosa, se ne spendo 1000 è un'altra, è un vantaggio più alto. Ovviamente chi può spendere 1000 euro a settimana ha un reddito più alto. Lei dice attenzione che in questo modo si avvantaggia anche per esempio il pubblico impiego che non ha avuto una cassa integrazione e anche altri settori nel privato che per fortuna non hanno conosciuto la cassa integrazione, mentre bisognerebbe puntare su settori specifici. La seguo in questo ragionamento. Dopo il traffico vorrei capire, Bella, per esempio, visto che voi rappresentate anche il mondo del turismo come bar, ristoranti, stabilimenti balneari, anche il mondo chiaramente del catering e quant'altro e alberghi, lei si immagina di concentrare questo abbassamento fortissimo dell'IVA in alcuni settori, oppure dice no, andiamo ad aiutare direttamente le aziende, però la mia obiezione in quel caso è, ho capito, ma se tu poi non dai a me consumatore la possibilità di avere un po' di sconto, l'azienda l'aiuti per un po', ma il fatturato continuerà a essere basso. La risposta dopo il traffico. In questi giorni abbiamo capito che la sicurezza è importante in tutto quello che facciamo. Ed è da questo che possiamo ripartire. Nella Eni Station il rifornimento è più sicuro. Fai carburante e ricevi subito un igienizzante per le mani. Al più servito lasci fare tutto a noi e non scendi dall'auto. E se utilizzi l'app Eni Station Più, paghi senza alcun contatto. Eni Station, riparti da qui. Iniziativa rivolta ai clienti delle Eni Station aderenti a impianto aperto. Puoi pagare con app, carta o contanti. Visita il sito enistation.com. Focus Economia. Allora, Mariano Bella, al di là delle obiezioni che facevo io, molti ascoltatori scrivono e poi tra l'altro chi ci assicura che il commerciante non cambi il prezzo sostanzialmente, quindi paghi meno IVA ma mi lasci il caffè a un euro, per fare la battuta. Prego, la risposta. Sì, no, vabbè, ora questa è una battuta, perché se ci fosse la possibilità di mantenere i margini e vendere a prezzi più bassi grazie a un'aliquota ridotta, io penso che i nostri aderirebbero tranquillamente, perché oggi c'è un problema veramente di fare un po' di volumi, non si scherza, cioè, abbiamo delle imprese che hanno preso il 100%, ora devono cercare di recuperare qualcosa. Ovvio, sulla domanda di prima, concentrare il taglio IVA per esempio sul turismo è una buona idea, però bisogna anche ricordare questo: non è che l'aliquota del 10 la possiamo passare all'8, la possiamo passare al 5. La Germania, che ha due sole aliquote, perché l'IVA è un'imposta comunitaria, quindi diciamo ha dei canoni da rispettare, non possiamo inventare un'altra aliquota, ma passare dal 10 al 5 vuol dire che su base annua ci costa 15 miliardi. Io mi domando, il governo è sicuro di avere i soldi anche per l'eventuale prosecuzione? Ma se non lo fai su base annua, Bella, se lo fai però diciamo per 3-4 mesi, che la stagione è già iniziata, certo. Potresti concentrare una cifra molto più bassa ma con un effetto molto più alto. Invece che spenderne 15 potresti spenderne 7, ma riducendola veramente di 5 punti, o no? Perché sì, questa potrebbe essere un'idea, cioè facciamo tutto il turismo, tutta la riguardo al 10 la passiamo dal 10 al 5 e lì si vede comunque un effetto negativo sui prezzi, cioè di riduzione dei prezzi. Se il Presidente del Consiglio, se il Consiglio dei Ministri capisce che deve farlo per almeno 6 mesi come la Germania, la verità è che loro l'hanno preso quindi fino a Natale, stesse, fino a Natale, ma anche fino a febbraio prossimo, allora questa può essere un'idea. Cioè, diciamo oggi, ma lo diceva anche il governatore Visco, mi pare, cioè sì. Non facciamo la logica dei rivoli. No, ma io devo dire che infatti una cosa ho apprezzato di Conte quando ha detto, abbiamo capito che appunto, abbiamo fatto sentire, alcuni settori non si riprenderanno neanche una volta che abbiamo... li abbiamo riaperti, perché iniziamo ad andare alla fase 3 dei distinguo. Resti con noi, le chiedo ancora qualche minuto, perché proprio sui distinguo vorrei capire, qui chiedo al capo del centro studio di Confcommercio, che cosa sta andando in maniera peggiore rispetto alle attese dopo la riapertura, perché abbiamo chiaramente la ripartenza non c'è stata, però ho il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Mariano Bella, per concludere, direttore del centro studi di Confcommercio, non le dico quanti messaggi sono arrivati nel frattempo al 349-238-6666 sull'idea che invece i commercianti, anche a fronte di un'IVA abbassata del 5%, manterrebbero i prezzi invariati, però insomma qui restiamo sulla polemica. Quali sono invece, per concludere, visto che lei segue e monitora settimana per settimana, i settori che l'hanno più sorpresa quanto a mancata ripartenza? Ho visto tempo libero a maggio meno 92, alberghi, bar, ristoranti meno 66, abbigliamento meno 55. E quanto secondo lei è dovuto all'effetto turismo e quindi assenza di turisti, e quanto invece all'effetto smart working, per tornare sulle parole di Sara? Guardi, ci sono 5 effetti: l'incertezza in generale, il distanziamento, cioè il problema dell'offerta. Lo smart working è importante sia per il commercio che per le filiere turistiche, poi c'è anche la semplice paura del contagio, e infine c'è l'effetto principale, che è un effetto reddito, perché se perderemo 120, 130, 140 miliardi di PIL, come dire, questo reddito non può essere speso in misura complessiva. Questo è un reddito che viene perso e si traduce in minori consumi. Faccio un esempio: il commerciante di abbigliamento che non ha venduto non acquisterà i mobili, quindi come dire, questo reddito manca e si vede tranquillamente. Ma lei si attendeva una fase, diciamo, di ripartenza così lenta, così incerta, o è rimasto sorpreso anche lei? No, io non sono rimasto sorpreso, dal fatto che a giugno c'è un po' di rallentamento, perché attenzione, a maggio il PIL comunque è cresciuto, cioè è maggio su aprile, sì. A giugno su maggio siamo già in rallentamento, questo è il grande punto interrogativo. E quindi, come dire, bisogna fare quelle cosine che aiutino le imprese terra terra, che ne so, il problema dei contratti a tempo determinato, delle causali, sono dire tranquillamente che ci sono che ci saranno i voucher, che li reintroduciamo magari soltanto per un anno, che togliamo le causali soltanto per un anno, ma facciamolo subito in maniera tale che chiunque possa lavorare oggi lavori. E io la ringrazio su questo, perché sono d'accordissimo. Grazie a voi. Grazie anche a Mariano Bella. Il DL dignità a me non è mai piaciuto, per la parte che riguardava le causali, che sostanzialmente disincentivavano ogni forma di tempo determinato. Ma vista l'incertezza adesso, se ne devono fare una ragione anche i 5 Stelle. È chiaro, nessuno sta dicendo di tornare completamente indietro, a me piacerebbe, però almeno sospendere, reintrodurre i voucher, sospendere le causali, perché è chiaro che le imprese, soprattutto quando piccole, ma non solo, e anche del commercio, ma non solo, hanno una totale incertezza su futuro, incapacità di orizzonte, non sanno se poi fra un anno saranno ancora in piedi con un fatturato diverso o invece ancora in estrema difficoltà. E quindi almeno sospendere la causale sul tempo determinato, visto che non c'è orizzonte, non puoi sapere se in realtà andrai meglio, peggio o nello stesso modo, almeno darebbe un po' di respiro, non ti porrebbe il tema se poi questo mi fa causa. E anche, vale anche per i voucher, che sono uno strumento molto utilizzato, per carità, uno va a controllare che non vi siano abusi, ma dai ragazzi, stiamo mantenendo giustamente i navigator, cioè il reddito di cittadinanza, e non sappiamo, ci preoccupiamo degli abusi sui voucher. Comunque, adesso vediamo invece le notizie che arrivano dalla Protezione Civile. Dunque, le notizie sono abbastanza buone, devo dire la verità. I decessi sono calati, sono 23 nella giornata di ieri. È domenica, sappiamo che ci può essere un ritardo. Parlo dei dati clinici, i ricoverati sono 276 in meno, meno 12%, e anche questo è un ottimo dato. In terapia intensiva sono il 14% in meno, anche questo è un dato fortissimo che non si vedeva da martedì scorso. 21 persone in meno, i nuovi contagi sono 218, anche in questo caso il dato è buono. Ripeto, attenzione, prendiamo con le pinze tutto, perché la domenica i dati possono essere in ritardo. Restiamo però in tema di mondo del commercio, se vogliamo, e di acquisti, per parlare di cosa capiterà dal 1 luglio, perché tra l'altro giustamente qualcuno mi fa notare, attenzione, che il governo sta pensando che l'abbassamento dell'IVA possa essere applicabile solo se si fanno acquisti con carta elettronica, cioè non in contanti. Restiamo sul tema dei contanti, perché dal 1 luglio, per legge, si abbasserà da 3.000 a 2.000 euro la soglia a partire dal quale è vietato trasferire denaro in contante, e poi andrà a 1.000 euro dal 2022. Tra l'altro, dal 1 luglio diventerà operativo il credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l'utilizzo del POS. E cioè, siccome i commercianti da sempre lamentano in alcuni casi il costo per avere il POS, si va da uno 0,2, 0,4 a 2-3 punti percentuali, e l'idea è diventare operativo un credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Grazie, buonasera. Allora Giovanni, questa misura era già prevista, ma se ho ben capito il credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti dovrebbe, non dico rappresentare la chiave di volta, ma far superare una forte resistenza di alcuni settori del commercio proprio per le commissioni. Sì, esatto. Insomma, una dei principali obiezioni che sono state fatte soprattutto dagli operatori del commercio, dai piccoli operatori economici, è che il costo del POS per loro era molto elevato, sia in termini di costi fissi sia in termini di percentuale sulle transazioni. Quindi nel corso dello scorso autunno, quando fu approvata la manovra economica, inizialmente si era previsto di reintrodurre la famosa sanzione mai applicata per l'obbligo del POS, cioè lo strumento per poter pagare con carta e bancomat, ma poi in conversione si è passati da questa idea all'idea di adottare un meccanismo premiale, quindi sostanzialmente chi in qualche modo agevola o fa effettuare pagamenti con carta di credito e bancomat avrà diritto a un credito d'imposta del 30% sulle commissioni pagate appunto su questi pagamenti che avrà fatto effettuare ai suoi clienti con carte bancomat, un meccanismo che è stato poi attuato all'Agenzia delle Entrate nelle scorse settimane. Va bene, vediamo quindi appunto come funzionare, quale sarà poi l'andamento, perché ripeto, a me un 30% della commissione da portare in credito d'imposta non sembra poco. Abbiamo parlato molte volte di pagamenti col POS. Devo dire che variano tantissimo le commissioni, sia appunto a seconda di chi è di chi le opera e anche dell'ammontare. La speranza è ridurre il nero. Non voglio aprire polemiche su, qualcuno mi scrive, la libertà di usare il contante. Sì, vabbè, tante libertà, però poi facciamo anche i conti con l'evasione. A me il fatto che uno mi dica io devo essere libero di girare con 2.000 euro nel portafoglio non mi torna 3.000, poi se fai quello che vuoi. Intanto il rischio e la gestione del contante ha un costo molto alto per le imprese, soprattutto quando sono grandi, medio-grandi nel mondo del commercio. E poi a me che uno debba girare con 2.000 euro nel portafoglio solo per sentirsi libero, sì, vabbè, per carità, in via di principio filosofico benissimo, in via pratica sentirsi libero di essere rapinato. Traffico. Focus Economia. We'll be right back. Allora, ultima parte di Focus Economia, occupiamoci, vedo che Weidmann, il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, ha detto che il piano di acquisti della BCE, quello di acquisti di emergenza, deve essere temporaneo, e vabbè, insiste che deve essere temporaneo. Invito Weidmann a occuparsi di un tema tedesco che si chiama Wirecard, il titolo è crollato del 34% in borsa, Moody's ha ritirato il rating e il capo della Consob tedesca, Felix Ufeld, presidente del BaFin, ha detto è un completo disastro, una vergogna quello che è accaduto. Il titolo quotato sul listino principale ha un buco di quasi 2 miliardi di euro, c'è la probabilità che 2 miliardi non esistano nella vicenda Wirecard. Quindi attenzione Weidmann a guardare, sì certo, all'ossessione degli acquisti della BCE, ma anche ai problemi di casa sua. Ma noi restiamo in tema di Germania. Dietro la notizia. Eh sì, restiamo in Germania, ma per un'altra vicenda. Venerdì ci siamo occupati della nostra Alitalia, che in maniera un po' ironica abbiamo detto quando il programma torna a occuparsi di Alitalia vuol dire che la situazione è tornata a essere normale, visto che ce ne occupiamo da almeno 20 anni, ma questa volta ci occupiamo di Lufthansa. Perché? Perché c'è un crollo in borsa del titolo, arrivato a perdere quasi il 6%, dopo che l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, ha dichiarato che la compagnia avrebbe cercato di evitare il fallimento e l'insolvenza ingaggiando una battaglia con il maggior azionista della compagnia aerea. Lì c'è un piano di salvataggio da 9 miliardi di euro deciso dal governo tedesco e appunto siamo in collegamento con Alessandro Praterotti. Alessandro, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti quanti. Allora, devo chiarire solo una cosa agli ascoltatori, perché qui, se no non si capisce, c'è un magnate tedesco che si chiama Hermann Thiele, che ha acquistato durante la pandemia a prezzi stracciati un grosso pacchetto d'azioni, lo ha portato ad essere il primo posto tra gli azionisti e lui ha il 15,5% delle azioni. Lui non vuole, se ho ben capito Alessandro, che entri, o meglio che l'aiuto dello Stato tedesco a 9 miliardi porti a una partecipazione dello Stato nell'azionariato e quindi anche nel Consiglio di Vigilanza. Alessandro. Attualmente lo Stato è già presente all'interno dell'azionariato di Lufthansa, ma con una quota del 5%, quindi una quota ridicola che comunque in sede di revisione della bancarotta, della procedura di salvataggio, si sarebbe ridotta comunque. Ed è per questo che è nata l'idea del piano di salvataggio da 10 miliardi. Ora, il piano di salvataggio fatto messo a punto dal governo tedesco è di stile tedesco, ovvero soldi in avanti, ma una sorta di amministrazione controllata e controllo del board da parte del governo. Qual è il problema? Che questa non è l'Italia. Allora, questa è una compagnia che negli ultimi anni ha emesso obbligazioni per svariati miliardi, i famosi bond sotto varie forme e anche tipo cambiali addirittura, perché è una forma di obbligazione che in Italia non esiste, molto tecnica, ma fatto sta che Lufthansa fa i conti non solo con questo Heinz Hermann che a 79 anni ha ammassato gran parte del debito, perché qui stiamo parlando di debito, ma fa i conti con oltre 100 banche e compagnie di assicurazione. Questo mi ha fatto venire in mente un po' quando parlavamo dall'Italia. In quel caso erano 2-3 banche le grandi esposte, no? Vi ricordate? Intesa, certo. Il Monte dei Paschi. Era un debito fatto soprattutto di debito bancario. All'Italia i bond li aveva, ma per fortuna sono andati bruciati anni fa, ormai sono lontano ricordo. Per cui il problema fra l'Italia era un problema fra l'Italia e lo Stato, di fatto, nel salvataggio. In questo caso, quello che deve far riflettere tutti è anche un altro aspetto. Noi abbiamo cercato di vendere Lufthansa all'Italia fino a ieri. Sì. Cioè, ponetevi il problema se l'avessimo fatto. Allora adesso che cosa sarebbe stato di Alitalia nuovamente? Avremmo vissuto un'altra estate di fuoco con crisi su Alitalia perché magari il governo tedesco o i nuovi azionisti non interessava Alitalia e l'avrebbero fatta fuori? Questo mi fa riflettere perché sarebbe stato il bis di Air France. Tu ricorderai che quando Padoa-Schioppa tentò di vendere Alitalia ad Air France, cioè, accordo fatto, poi salta l'accordo, cordata dei patrioti, nessuno vuole che il France va in amministrazione controllata a sua volta. In questo caso la situazione è ancora più grave perché qui c'è stato il blocco dovuto dal virus, per cui la crisi indotta di Lufthansa l'abbiamo scoperta col virus. Ma questa è una compagnia globale, quindi la crisi in questo senso investirà soprattutto il trasporto a medio termine, a medio raggio, quello che noi chiamiamo il famoso medio raggio, perché è quello che si guadagna di meno. Che cosa allora dall'Italia. E me lo chiedo anche per un altro motivo, perché a livello ufficiale il governo italiano sta ancora trattando con Lufthansa. Allora Lufthansa aveva chiesto a noi che cosa per comprare l'Italia? Una ristrutturazione draconiana, già prendendosi un'azienda pulita, però con molti meno dipendenti e soprattutto con i nuovi contratti di leasing. Beh, allora che cosa dobbiamo fare domani? Andremo a trattare con il signor Heinz, che probabilmente ci farà chiudere il resto degli slot, o altrimenti vogliamo intavolare un discorso più costruttivo in questo momento anche con Lufthansa dicendo tornate più tardi, e allora lo Stato si assuma le sue responsabilità, il nostro governo parla. Ecco, questa è una cosa importante, perché come una crisi, che è una crisi di una compagnia aerea tedesca che è condivisa da tante altre compagnie aeree, ma guarda caso stiamo parlando proprio di quello che dovrebbe salvare l'Italia. Voi vi rendete conto in che circostanze nuovamente ci troverà questa operazione? Sì, tra l'altro Heinz Hermann Thiele, che tu citavi, faccio notare che poi ha raccolto a prezzi, appunto, di prezzi stracciati il pacchetto da 15,5%. Però insomma il ragionamento è attenzione, perché evidentemente vanno valutate con estrema cautela le ipotesi, soprattutto in questo caso l'ipotesi Lufthansa, che poi fu definita, devo dire, fin dall'inizio abbastanza inaccettabile per, come ricordavi tu, le misure draconiane che richiedeva. Però attenzione, perché non vorrei parafrasare il vecchio detto tra Sparta e Atene, però insomma, se l'Italia piange e piange da anni, in questo momento non mi sembra di vedere un panorama europeo in primis, ma internazionale, in grado di dare delle garanzie. E il fatto che adesso, tra l'altro, si sia dimesso di mezzo anche il ministro delle finanze tedesco Scholz per ridiscutere il piano di salvataggio e trovare una quadra a una vicenda molto, molto complicata in Germania, te la dice lunga, Alessandro, sulla fragilità e anche la delicatezza della stessa Lufthansa in questo momento. Ma soprattutto riguarda anche l'Europa, perché nel famoso piano di ricostruzione, i piani di rilancio, il settore aereo è stato preso contemplato, sapete soltanto per che cosa? Per il cambio dei motori in chiave ecologica, cosa che uno viene da ridere pensando alla situazione di questo momento del trasporto aereo. Allora, solo il settore aereo, l'Europa vive di turismo o non vive, è soltanto l'Italia il problema? Vive di trasporti internazionali? Beh, io credo che all'interno del rilancio di un piano industriale per l'Europa, di questo sto parlando, perché noi discutiamo del MES, del piano industriale per l'Italia, ma non esiste più un piano industriale per l'Italia nel momento in cui rafforziamo i legami con l'Europa. Io voglio un piano industriale europeo. Beh, allora anche la questione dell'Italia, in prospettiva, va inquadrata come problema europeo e non solo italiano, se è vero che il trasporto aereo è strategico. Che cosa abbiamo visto noi finora? Che prendono tanto, insomma, in giro gli italiani sulla questione dell'Italia, ma il governo francese è stato costretto a portare oltre il 25% la sua partecipazione in Air France, perché altrimenti sarebbe andata anche lei in bancarotta. 6 miliardi ha messo, certo. Ci mette 10 miliardi. Allora, ognuno continua a mettere miliardi e miliardi sui propri conti. In un'ottica poi qual è? Che vengono da noi e dici dateci i vostri pezzi, ma come? Prima il lavoro sporco tocca a noi e poi vogliono prendere quello di buono che è rimasto. E in questo momento io credo che in un'ottica europea anche questo discorso vada riconsiderato. Sono d'accordo con te, il che non vuol dire approvare come è stata gestita in questi 20 anni, alcune volte meglio, alcune volte peggio all'Italia, ma visto che il mondo è cambiato, rendersi conto che adesso paradossalmente, se ho ben capito il tuo ragionamento, si dovrebbe trattare più alla pari, cioè non c'è più il brutto anatroccolo all'Italia salvato con 3 miliardi, o meglio resta insomma un problema, non dico un brutto anatroccolo, ma resta, però si è allargata la famiglia, visto che appunto Air France ha ricevuto 6 miliardi e il 25% del capitale dello Stato francese, e Lufthansa quasi 10 con un 20% dello Stato tedesco, se appunto l'operazione non dovesse essere contrastata. Per concludere, Alessandro, tu immagini che in un dialogo più alla pari si parli di rilancio dell'intero settore delle compagnie aeree europee, non tanto di chi compra quali pezzi di cosa? Assolutamente, questo deve essere un'ottica, così come abbiamo discusso dell'industria europea dell'auto. La crisi di Peugeot, la crisi di Renault, la crisi dell'Audi, la crisi della Fiat ha spinto l'Europa a definire un piano per l'auto, come lo stiamo vedendo. Si cominciassero a fare un piano dei trasporti, come si faceva sanamente tanti anni fa, i famosi piani programmatici dei trasporti, ma in un'ottica europea, perché si deve fare per la TAV e non dobbiamo farlo per il trasporto aereo? Sì, no, è ora di cominciare dialogando su un piano un po' più pari, devo dire la verità. Grazie anche a Alessandro Praterotti, che riavremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia. Ed è veramente tutto per questa puntata. Un unico aggiornamento sui dati della Protezione Civile: in Lombardia, leggo assieme a voi, ci sono state solo 3 vittime, che è il dato più basso dal 27 febbraio. Speriamo. A domani.